Salve a tutti radioascoltatori di Radio Big World, benvenuti alla primissima puntata di questa nuova trasmissione radiofonica che si chiama Vagabondo in giro per il mondo. E cosa vorrebbe dire questo titolo? Ancora sinceramente me lo sto chiedendo io, ma io chi sono? Chiaramente ho un nome e un cognome, mi chiamo Claudio Landi, e però diciamo che sono abituato a sentirmi chiamare Fumino, e anche per un discorso pratico preferirei continuare ad essere chiamato in questo modo su questa emittente. Praticamente Vagabondo in giro per il mondo. L'idea iniziale era forse un po' legata agli svariati viaggi che ho fatto nel corso degli anni, viaggi più o meno brevi, più o meno lunghi, talvolta per svago puro e semplice, altre volte magari per andare a carpire qualcosa dai posti dove ero, dove mi trovavo. Però Vagabondo in giro per il mondo, adesso mi è venuto in mente di dargli anche una connotazione differente, vale a dire vagabondare non nel senso di non fare niente, ma anzi tutt'altro, nel senso proprio di andare in giro o ricevere da tutto quello che gira intorno a me, vale a dire io sto fermo, statico in un punto e quello che mi gira intorno mi dà l'input, mi dà le sensazioni, come chiamarle, come poter dire, per creare qualcosa di simpatico e divertente. Bene, mi prefiggo un po' l'idea, l'intento, diciamo, di riuscire a analizzare più o meno approfonditamente tutto quello che riesco a carpire da questo vagabondare. Come dire, ieri è successa una cosa molto molto bizzarra che mi ha fatto fare delle domande. Ecco, quello che mi prefiggo di fare durante questa manciata di minuti è porre alla vostra attenzione, che gentilmente mi state ascoltando e che io per questo vi ringrazio tantissimo, a portare alla vostra attenzione il, come dire, focus su un aspetto dell'essere umano. Vale a dire, quando andiamo in giro e andiamo ad visionare, a visitare nuove culture, a volte anche a viverle per lunghi periodi, nuove culture, nuove tendenze, nuovi modi di fare, nuovi stili di vita, non perché siano nuovi, ma perché sono diversi dai nostri, tendiamo a imparare delle cose. Bene, a me cosa mi succede? Mi succede che mi pongo delle domande rispetto a quello che vedo. Allora, ritorniamo all'aneddoto legato a ieri. Scendo in strada, come mi capita di fare quasi tutti i giorni, e noto che c'è un capannello di gente di fronte ad un'abitazione, ambulanze, auto delle forze dell'ordine ferme lì davanti, e si era formato un fitto folto capannello di gente. Chiaramente fra queste persone ce n'erano anche alcune di mia conoscenza, quindi io mi sono avvicinato e ho chiesto se qualcuno sapesse che cosa fosse accaduto, il motivo per cui c'erano lì presenti l'ambulanza e le forze dell'ordine. Nessuno, ma proprio nessuno, è stato in grado di dirmi alcunché al riguardo, ma proprio niente, nemmeno una minima idea. Però tutti stavano lì fermi, imbambolati, oserei dire, un po' come catturati a fissare la porta dove erano entrate i medici con le forze dell'ordine. Allora, io mi chiedo, la domanda è la curiosità. E è questo l'aspetto dell'essere umano che in questo momento mi piacerebbe un po' scandagliare. La curiosità, già la mia in partenza, che ho chiesto se qualcuno fosse a conoscenza di quello che era successo, ma la curiosità anche degli altri che, pur non sapendo assolutamente niente, se ne stavano lì imbambolati ad aspettare probabilmente di riuscire a capire qualcosa, di riuscire ad avere un'informazione, di riuscire a sapere il perché. Allora mi chiedo, ma perché le persone si comportano in questo modo? Perché siamo così curiosi? Ad esempio, i social network, tutti o moltissimi di noi hanno dei social network, che siano Facebook piuttosto che Twitter o qualcos'altro. Per quale motivo li usiamo? Li usiamo per propagandare qualcosa di nostro o lo usiamo per curiosare nelle vite degli altri? Le vite degli altri, tra l'altro, bellissimo film che, se non lo avete visto, vi consiglio di vedere. Allora, questa è una domanda. E quale è l'aspetto morboso del perché le persone fanno così? Ad esempio, torno un passo un po' più indietro. La morbosità, la curiosità di cosa? Di vedere il volto di un eventuale arrestato, di un eventuale ammalato, del ferito, per cosa? Per poter dire lo conosco, non lo conosco, per avere qualcosa da raccontare la sera a casa quando rientriamo, per avere qualcosa da commentare al bar con gli amici, non lo so, io questa cosa me la sono sempre chiesta. Ad esempio, fate caso ad una cosa, qual è il fatto che più vi fa alterare a volte quando siete in macchina? A me, a voi non lo so qual è il vostro, io vi racconto il mio. Ad esempio, io non capisco perché, quando ad esempio viaggiamo in autostrada e nella corsia opposta alla nostra di viaggio, di marcia, c'è un incidente, piccolo o grande che sia, anche dall'altra parte si forma inevitabilmente una bella coda di curiosi, di gente che non ha nessun tipo di intoppo sulla propria strada, ma rallenta il proprio mezzo per curiosare nell'incidente avvenuto dall'altra parte. E spesso ci sono le siepi, ci sono le aiuole o il guardrail nel mezzo alla strada, e comunque cosa vuoi vedere, cosa riesci a vedere? Non riesci a vedere mai niente, però uno magari arriva un po' veloce e quelli davanti inspiegabilmente rallentano, e magari così si crea un altro incidente. A questo non ci pensano forse nessuno, ma e allora perché l'essere umano fa così? Questa è una domanda che io mi pongo spesso, mi pongo ogni volta che vedo accadere le cose, e invito voi, carissimi ascoltatori, a porvi la stessa domanda, se ne avete voglia, a cercare una risposta. Io suppongo che sia molto preponderante la morbosità, vale a dire il vedere un qualcosa che raramente vediamo, un qualcosa da poi condividere con gli altri per magari farsene un vanto, io ho visto questo, io ho visto quello. Vi invito, carissimi ascoltatori, se ne avrete voglia, a darmi qualche vostra risposta su questo piccolo quesito che ho portato oggi alla vostra attenzione. Bene, allora, questa prima puntata di Vagabondo in giro per il mondo termina qua, anche perché io l'input ve l'ho lanciato, mi auguro che lo cogliate, e il mio intento è, nel ciclo di questa puntate vagabonde, oserei dire, puntare il focus su alcuni aspetti dell'uomo, perché poi magari alla fine chi ha ascoltato l'intera stagione riesce ad avere un quadro un attimino più chiaro di tutte le persone che gli girano intorno, perché chiaramente, come diceva mio nonno, tutto il mondo è paese, e di conseguenza io sono qui, voi siete chissà dove, ma le persone che ci girano intorno sono sempre le stesse per tutti. Ciao amici da Fumino, ci ascolteremo prossimamente con la puntata numero 2. Grazie a tutti.